Ed è tutto anche per questa puntata di Italia in Controluce. Vi ricordo che potete commentare i servizi che sono andati in onda o raccontarci le vostre storie. Scriveteci controluce@radio24.it, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Siamo anche su Facebook, Radio 24 Italia in Controluce. Ci risentiamo domani nell'edizione delle 6:30. Buona giornata.